La FIA sta ripresentando l'identico schema di Pomigliano, quindi con 120 ore di straordinario, l'aumento delle turnazioni, le sanzioni sulla malattia costruite con un diverso decalage, ma le sanzioni e le clausole di responsabilità verso i sindacati e i lavoratori, con questa dichiarazione di non applicazione del contratto nazionale nella NUCO e di non applicazione dell'accordo interconfederale, cosa che impedirebbe ai metalmeccanici della CGIL di avere rappresentanza. Cioè, quindi siamo a un aggravante per quel che ci riguarda rispetto a Pomigliano. La Fiat vuole semplificare le rappresentanze sindacali e il pluralismo sindacale, vuole avere un unico sindacato uniformandosi all'altra parte della società, quella americana e la Chrysler, e lo fa espellendo chi dissente, i metalmeccanici della CGIL, e rendendo inutili e innocui chi consente attraverso procedure e sanzioni. Mi sembra una cosa gravissima, è un attacco alla libertà di associazione sindacale, credo che dovrà rispondere tutta la CGIL. Ecco, quindi i margini per la trattativa non c'erano proprio perché l'accordo pare, dal vostro punto di vista, peggiorativo rispetto a quello che è stato siglato per Pomigliano e anche rispetto a quello che vi era stato proposto il 3 dicembre. Beh, direi che è sicuramente peggiorativo rispetto a Pomigliano, perché a Pomigliano non c'era l'accordo, la NUCO, per superare il contratto nazionale, e non si esplicitava che non si voleva applicare l'accordo sulle rappresentanze sindacali. Quindi è peggiorativo dal punto di vista proprio della, di rappresentare i lavoratori e della libertà di associazione sindacale. E poi, come si dice, è peggiorativo rispetto al 3 dicembre perché è più esplicito. Francamente, se mediazione confindustriale c'è stata, non se ne vede l'effetto sul tavolo di trattativa. La Fiat non si fida, procede da sola e chiede al sindacato di sostenere coi lavoratori l'investimento a scapito di diritti, libertà sindacali e peggioramento delle condizioni di lavoro. Così si va verso il conflitto. Noi vogliamo l'investimento, ma non siamo disposti a impoverire e a ridurre le libertà dei lavoratori. Quindi, giudizio negativo rispetto a quest'intesa, cosa farete? Ma intanto siamo di fronte a un accordo che, più che essere un regalo di Natale, è un pessimo regalo. Uno di regali di questo tipo potrebbe farne anche a meno. I lavoratori rientreranno a partire dal 10 gennaio, saranno in fabbrica dal 12 gennaio tutti fino al 20 e sarà urgente fare le assemblee. Noi pensiamo che una consultazione vincolante per noi in questo caso è inaccettabile, perché si farebbero decidere i lavoratori di Mirafiori per tutti i lavoratori italiani, è come se un singolo comune potesse decidere da solo di separarsi dall'Italia. Questo francamente non lo consente la Costituzione italiana, non si capisce perché dovrebbero consentirlo a un voto di lavoratori, quindi noi come FIOM prenderemo la nostra opinione e poi i lavoratori, che sono la parte più ricattabile perché gli viene messa una pistola alla tempia, decideranno che cosa fare. Noi di sicuro non li lasceremo soli. Si va verso lo sciopero generale? Ma noi abbiamo deciso uno sciopero dei lavoratori del gruppo FIA, di cui dobbiamo decidere la data. Credo che a questo punto decideremo la data, si vedrà cosa fare. Intanto faremo di sicuro lo sciopero dei lavoratori del gruppo FIA, vedremo quando, in modo da farlo nel modo più partecipato ed efficace.